Il problema è quello che tutti i genitori stanno ormai da qualche settimana cominciando a mettere a fuoco. Quando riapriranno le aziende, molte non hanno mai chiuso, si parla di una chiusura anche durante il lockdown di un 40% delle aziende in realtà. Quando tutti rientreranno veramente a lavorare, tutti si dovranno veramente porre il problema di dove mettere i figli. E dove mettere i figli è ovviamente una domanda di ordine pratico. Parlerò dopo del problema in sé che riguarda i bambini, i loro bisogni totalmente dimenticati. Allora, dove mettere i figli? Ci hanno detto che i nonni sono fragili per la loro età, per la loro maggiore esposizione al virus. Con tutta evidenza hanno detto che si stava in casa rinchiusi per proteggere prima di tutto loro, per evitare che il contagio propagando si arrivasse a quelle fasce di popolazione, perché i bambini ad oggi non si ammalano. Perciò il problema di rinchiudere in casa i bambini è funzionale al tenere in casa più persone possibile, compresi i genitori che poi li devono portare a scuola, eccetera. E questo nell'interesse della fascia di popolazione più fragile. Bene, adesso che cosa ha fatto proprio ieri sera il presidente del Consiglio, il capo del nostro governo Conte? Ha fatto una lunga conferenza stampa in cui praticamente ci ha fatto soltanto l'elenco delle attività che riaprono quando, senza parlare di come affronteremo i nostri problemi. Una giornalista gli ha chiesto: ma i nostri figli dove staranno quando noi torneremo a lavorare? E lui gli ha risposto: non possiamo riaprire le scuole perché i nostri studi mai citati, attenzione, mai un riferimento scientifico a quello che viene detto, ci dicono che si ricomincerebbe a propagare il virus tantissimo e quindi non si può fare. Ma la domanda era sui bambini, la gestione familiare, non sulla scuola in sé. Sulla gestione familiare loro hanno dato questa risposta: fate bene attenzione, qual è l'unica cosa che si può fare a parte andare nei negozi che vi riapriranno e tornare a lavorare dal 4 di maggio? L'unica cosa che potremo fare è andare in visita ai parenti. E io tutta la sera ho pensato: ma come mai si potrà andare a fare visita ai parenti? E gli amici no, i fidanzatini no, cioè, perché proprio fare? Cioè, vabbè, loro ci hanno dato la risposta, ma si vergognano forse a darcela per esteso. Avete risolto così il problema di dove mettere i figli? Li portate dai nonni, quei nonni che fino ad ora noi abbiamo dovuto proteggere, adesso li mettiamo in prima linea, perché secondo loro i nipoti sono contagiosissimi, d'accordo, se no riaprirebbero le scuole. Invece di mandarli a scuola con degli insegnanti a cui hanno fatto lo screening, che avessero fatto magari anche il test sierologico, degli insegnanti in delle aule sicure, attrezzate, tutti i problemi che il governo dovrebbe affrontare, perché è questo che deve fare, si risolve così: mandate i figli dai nonni. Noi non ve lo diciamo esplicitamente, non lo vogliamo neanche sapere, ci giriamo dall'altra parte, lasciamo ai nipoti la responsabilità di far morire i propri nonni. Dobbiamo leggerla così. Ci sono però delle misure previste dal governo che riguardano il bonus babysitting e i congedi parentali straordinari. Sono insufficienti? Certo che sono insufficienti. Per quanto riguarda i congedi parentali, per il momento ci sono stati 15 giorni al 50% dello stipendio. Innanzitutto il 50% dello stipendio con questa crisi non so in quanti se lo possono permettere. 15 giorni poi sono stati per i primi due mesi e quindi negli altri 45 giorni di quei due mesi non so uno come si dovesse organizzare per gestire i figli. Adesso si parla di aggiungere altri 15 giorni da spalmare su maggio, giugno, luglio, agosto e metà settembre di sicuro, ma dicono che forse a scuola si ritorna il primo d'ottobre. Su 5 mesi 15 giorni e gli altri 150 come facciamo? Perché uno dei commissari ha detto anche: scordatevi i centri estivi, benché poi la ministra per la famiglia lo abbia giustamente zittito dicendo che alla fine è la politica che decide. Questo per quanto riguarda i congedi. Il bonus babysitter per ora sono stati stanziati 600 euro per ogni famiglia che ne facesse richiesta. Con 600 euro chi ha mai preso una babysitter sa che ci copre una settimana, ma anche se ci dessero 1500 euro al mese per 5 mesi, dove si trovano 7 milioni di babysitter? 7,9 milioni sono i bambini sotto i 14 anni che necessitano per legge di avere sempre un adulto con sé. Voi sottolineate anche l'impatto che questa situazione produce sui bambini, che viene spesso dimenticato. Certo, ed è sinceramente il primo movente di tutta la mia iniziativa, perché parlando personalmente io mi posso permettere di pensare subito a questo. Io vedo, come vedono tanti miei amici con i loro figli, degli effetti di questa clausura, di questa segregazione nei bambini, che sono già adesso devastanti. I bambini soffrono la mancanza di socialità, che è la prima forma di apprendimento, e questo lo dicono i psicopedagogisti di tutto il mondo. I bambini vengono privati di un momento della loro vita fondamentale, perché specialmente i più piccoli costruiscono la loro identità da piccolissimi, ok? Allora noi li stiamo privando di questo momento di vita, di socialità fondamentale, gli stiamo provocando un trauma. Questi bambini hanno bisogno di uscire e di stare con i loro coetanei. Io già lo vedo nelle mie figlie, c'è regressione, c'è le conquiste dell'autonomia che loro hanno fatto, maturato piano piano, un po' tornano indietro, tornano a fare cose che facevano un anno fa, magari ad aver bisogno di conferme, di aiuto da parte degli adulti che avevano già superato, ecco. Poi c'è il nervosismo, c'è la tristezza, ci sono i momenti di rabbia, momenti in cui i bambini piangono perché chiedono e richiedono quando torneremo a scuola, e nessuno sa dar loro una risposta. E di queste storie è pieno il web, ci sono social network che straripano di queste storie, e infatti noi ci domandiamo, noi della petizione ma anche tanti altri genitori, ma com'è possibile che se tante tante persone la pensano così? Un'ultima battuta la farei sulla condizione femminile, perché sappiamo che il lavoro di cura in Italia purtroppo è ancora spesso quasi interamente sulle spalle delle donne, quindi il rischio è che molte donne rinuncino a lavorare. Certo, e questo rientra nell'alveo di una visione paternalista della società che già dai governi Fanfani degli anni 50, in cui si stabilì che i bambini potevano benissimo stare a casa con le madri, le quali venisse dato un assegno di come casalinghe, diciamo. Esiste tuttora questa convinzione, si fa molto leva su questo. Ora si vorrebbe ritornare a questo, benché ci si fosse progressivamente affrancati da questa visione anche per necessità, perché non basta più lo stipendio del padre, c'è bisogno di due stipendi in casa, e quello che verrà sacrificato per prima, però già lo sappiamo, sarà quello della madre. E tante tante richieste alla petizione arrivano dicendo: io non so come fare, madri che dicono quando riaprirà l'azienda io mi dovrò licenziare perché coi miei figli non c'è nessuno.